Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti voi, cari ascoltatori, il mio saluto e il mio ricordo con l'augurio a tutti di buon anno. È vero che l'anno è già iniziato da un po', ma io sono tornato a dialogare con voi e a condividere con voi la parola solo quest'oggi. Come sapete, il nostro appuntamento mensile è un appuntamento che si radica sulla parola di Dio e ormai da alcuni anni stiamo facendo la lettura continua degli Atti degli Apostoli. E siamo arrivati al capitolo 24 degli Atti degli Apostoli, dove Paolo inizia una delle pagine più lunghe e più feconde del suo ministero, che è la pagina della prigionia. Paolo, sappiamo, è stato arrestato mentre svolgeva una ritualità nel Tempio di Gerusalemme su richiesta dei responsabili della comunità di Gerusalemme, della comunità madre di Gerusalemme. Lì è stato arrestato e dopo l'arresto, per motivi precauzionali, proprio perché la sua vita era in pericolo a motivo di coloro che sicuramente non volevano il bene dell'Apostolo, è stato trasferito a Cesarea. E la volta scorsa ci siamo soffermati sul primo momento in cui Paolo pubblicamente viene portato a processo e accusato pubblicamente. Ecco, nella trasmissione di oggi vedremo come si conclude il processo di Paolo a Cesarea e cosa succede durante tutto il periodo in cui Paolo rimane prigioniero proprio nella città di Cesarea Marittima, un periodo che durerà ben 2 anni. Prima però di entrare nel testo, ascoltando la parola di Dio, ricordo solo due di quelli che sono gli obiettivi di questo nostro appuntamento mensile. Il primo obiettivo è quello che viene sottolineato dal titolo stesso della nostra trasmissione: la tua parola mi fa vivere. Cioè, l'obiettivo di questa trasmissione non è incontrare un libro, non è solo aggiungere delle nozioni o delle conoscenze a quanto già noi abbiamo accumulato grazie al nostro interesse, grazie all'ascolto di altre trasmissioni, grazie alla lettura di un buon libro, no? Ma è qualcosa di più. L'obiettivo è quello di non toccare solo la testa, ma scaldare il cuore, percepire il gusto di Dio, entrare in contatto con un volto che è quello del Padre, manifestato in Cristo e reso vivo in noi grazie all'azione dello Spirito Santo. Quindi questo è un pochino il primo desiderio, la prima preghiera, a cui si ricollega subito la seconda, perché la parola di Dio scaldi il cuore, perché possa vivere dentro di noi come è successo in Maria, è necessaria l'azione dello Spirito Santo. Ed è proprio questo Spirito che invoco su di me e invoco su ciascuno di voi che siete in ascolto e su quanti in diversi momenti, magari ascoltando anche le registrazioni, si troveranno in contatto con la parola che quest'oggi condivideremo. Invito quanti di voi sono nella possibilità di farlo, di prendere in mano un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento, aprendola proprio al capitolo 24 degli Atti degli Apostoli, in modo da poter seguire più facilmente la nostra trasmissione. Quanti invece sono alla guida o non sono nell'impossibilità di fare questo, seguiranno ovviamente ascoltando il testo. La nostra trasmissione, come è suo solito, si dividerà in due momenti. La prima metà è la mia condivisione con voi, la seconda metà invece sarà lasciata ai vostri interventi, durante i quali potete fare brevi considerazioni, porre delle domande, chiedere degli approfondimenti, insomma far sì che questo nostro appuntamento possa essere il più fecondo e il più utile possibile alla nostra vita. Bene, nella nostra lettura riprendo alcuni versetti della volta scorsa, proprio per richiamare un attimino il tema, cioè capire su dove si basa la risposta di Paolo, perché la volta scorsa abbiamo fatto il processo, però per capire la risposta di Paolo è molto importante richiamare i capi di accusa che sono stati rivolti all'Apostolo in modo da comprendere meglio la sua risposta. Quindi dividerò la mia riflessione in tre momenti. Il primo momento è l'accusa, richiamare l'accusa di Paolo, l'accusa rivolta a Paolo e capire dove Paolo si trova, in che situazione, con quale stato d'animo. Il secondo momento vedremo su dove punta la risposta di Paolo. Il terzo momento invece vedremo la reazione del procuratore, che conclude anche questo periodo di prigionia che Paolo vive a Cesarea. Cominciamo con il primo momento, che se volete è un momento di inquadramento. Ci fa capire che Paolo si trova a Cesarea e ci richiama i capi di accusa fatti all'Apostolo. Leggiamo i versetti dal 5 al 9 del capitolo 24 degli Atti degli Apostoli, dove appunto questo avvocato, questo Tertullo, che abbiamo incontrato la volta scorsa, avanza l'accusa verso l'Apostolo dicendo così: abbiamo scoperto che quest'uomo è una peste, fomenta disordini fra tutti i giudei che sono nel mondo ed è un capo della setta dei Nazorei. Ha perfino tentato di profanare il Tempio e noi l'abbiamo arrestato. Interrogandolo potrai sapere di persona da lui queste cose delle quali noi lo accusiamo. Si associarono all'accusa anche i giudei, affermando che i fatti stavano così. Ecco, abbiamo richiamato solo quattro versetti, però ci danno bene l'idea della situazione. Paolo è dichiarato una peste, e sappiamo che cos'è una peste, una piaga pericolosa che si diffonde provocando la morte delle persone, fomenta disordini fra tutti i giudei che sono nel mondo, quindi Paolo viene accusato come una persona che gira per il mondo e fomenta disordini, cioè rompe, spezza la comunione all'interno delle comunità ebraiche. Viene anche detto che è a capo della setta dei Nazorei. Vedete che l'accusa contemporanea a volte che da alcuni gruppi anti-ecclesiali viene rivolta a Paolo come se questi fosse il fondatore del cristianesimo è un'accusa radicata lontano nel tempo. Già il capitolo 24 degli Atti degli Apostoli viene definito il capo della setta dei Nazorei e sappiamo che la definizione stessa di setta vuole mettere in discredito ovviamente il cammino, la via cristiana. Viene accusato di profanare il Tempio e in questo contesto sarebbe stato arrestato. Ora, se noi teniamo presente la situazione in cui Paolo si trova, è una situazione decisamente di debolezza. La sua posizione è una posizione di debolezza in questo contesto. Ha contro tutti i giudei, tra l'altro questa accusa si chiude annotando che si associarono all'accusa anche i giudei affermando che i fatti stavano così, quindi Paolo ha contro di sé i giudei, è davanti a un procuratore che, stando alle informazioni che noi abbiamo da Giuseppe Flavio, era un procuratore crudele e avido. Addirittura viene considerato come uno dei procuratori che crearono il clima peggiore precedente alla rivolta giudaica che poi scoppierà nel 66. Felice governò dal 53 più o meno fino al 59 dopo Cristo e l'astio che generò attorno a sé si riverserà poi verso ovviamente il potere romano che lui rappresentava. Quindi ha contro i giudei e davanti a un procuratore di questo tipo. Non ha nessun avvocato perché Paolo, lo ascolteremo, si difende senza avvocato. mentre gli altri, oltre ad essere compatti e numerosi, hanno dalla propria parte, si sono portati, un avvocato che sa fare il suo mestiere, questo Tertullo, e poi si trova in un contesto comunque corrotto. Lo ascolteremo alla fine della nostra trasmissione. Felice vuole tenere, il procuratore vuole tenere ovviamente il piede in due scarpe, cioè quello che lui vuole è non perdere il potere che ha e non perdere però nemmeno quelle alleanze che gli fanno comodo, soprattutto nella regione che lui si trova a dover governare, con i giudei. Quindi siamo in una situazione dove Paolo si trova in una condizione palese di debolezza. Ora, come Paolo vive questa situazione? Penso che possa essere utile per noi focalizzare lo stato d'animo di Paolo valorizzando uno dei passaggi che lui utilizza in una delle sue lettere, una lettera tra l'altro scritta prima di questi fatti, che è la prima lettera ai Corinzi. Al capitolo 2 Paolo scrive questa lettera da Efeso, al capitolo 2 Paolo in pochi versetti descrive come lui vive la debolezza. Dice così: «Anch'io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e sulla sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio». Allora, capite subito che se Paolo vive una situazione di debolezza in questo momento di accusa, per Paolo la debolezza non è un segno a sfavore, ma vivendo lui radicato in Cristo, la debolezza, in greco viene chiamata astenia, no? Troviamo proprio questo termine, è la condizione che non fa da ostacolo all'azione dello Spirito, cioè la debolezza è quella che favorisce di più l'azione dello Spirito. Perché? Perché il centro dell'annuncio non è più la persona di Paolo, non è la sua metodologia, non sono le sue conoscenze, le sue conoscenze, la sua capacità retorica, ma è il Cristo che agisce in lui. Anche nella lettera ai Colossesi Paolo a un certo punto dirà: io mi glorio, sono lieto delle sofferenze di Cristo, quelle che sopporto per voi, perché completo nella mia carne quello che manca alle sofferenze di Cristo. Il che vuol dire non che Cristo non ha sofferto abbastanza, ma unendosi nel dolore a quello che Cristo ha sofferto, Paolo permette al beneficio, alla grazia ottenuta dalla sofferenza di Cristo di passare attraverso di lui, cioè rende il frutto, che è un frutto d'amore, di quelle sofferenze ancora attuale, ancora vivo, ancora dinamico. Ecco, la persecuzione per Paolo è il luogo in cui Dio si può meglio servire di lui. Ribadiamo quello che abbiamo già detto nelle puntate precedenti, non dimentichiamo mai che un terzo di tutto il ministero di Paolo, di tutto il ministero dell'Apostolo, viene svolto in condizione di prigionia, quindi in una condizione di debolezza. Non dimentichiamo che la forza della nostra fede si basa su un uomo crocifisso. In croce Gesù non può muovere nulla, tutto gli è stato rubato da un punto di vista umano, gli è stata rubata la dignità, gli sono stati rubati i discepoli, è stato frainteso l'insegnamento, viene consegnata la madre, viene donato lo Spirito. Non c'è una persona più svuotata, più debole, più bloccata, più condannata di un uomo crocifisso. eppure sappiamo cosa sgorga dalla croce, quale potenza di vitalità e di fecondità sgorga dalla croce. Allora capiamo bene che la persuasione che avranno le parole di Paolo non passa dal fatto che Paolo sa argomentare le sue idee. Paolo non ha bisogno di un avvocato per questo. Non passa dal fatto che Paolo si impone con la sua volontà. Paolo è da solo, non può imporsi in alcun modo davanti a dei giudei ostili, davanti a un procuratore come Felice, davanti a un mondo corrotto come quello in cui si trova in questa pagina della sua storia personale. Ma il fatto di essere unito a Cristo lo rende luogo in cui passa l'azione dello Spirito. Il suo è il ministero della debolezza, ma proprio perché è un ministero che passa dalla debolezza, è un ministero che ha in sé una forza enorme. Ecco, proviamo a lasciare un attimo uno stacco musicale, proprio per avere quel minuto di tempo in cui interiorizziamo questo primo messaggio. È vero, Paolo si trova in prigione, Paolo si trova esposto a un processo dove non c'è nessuno a suo favore, ma lui si accosta a questo momento con la via della debolezza, dove il Cristo può vivere, passare, comunicarsi, ed è ciò che sentiremo nella risposta e leggeremo i versetti della risposta dopo un breve stacco musicale. Quindi invito la regia a darci un minuto di tempo di riflessione attraverso un brano musicale, dopodiché riprenderemo la nostra condivisione. Quindi nel processo, proprio nell'esperienza della debolezza, Paolo fa esperienza della grandezza del Signore, fa l'esperienza del suo Salvatore, proprio come abbiamo ascoltato nel breve stacco musicale. Ecco, è quello che noi notiamo nella risposta che dà Paolo. Allora, ascoltiamo i versetti che contengono la risposta di Paolo alle accuse di Tertullo, raccolte nei versetti da 10 a 21. Paolo si difende così. Quando il governatore fece cenno a Paolo di parlare, egli rispose: «So che da molti anni sei giudice di questo popolo e parlo in mia difesa con fiducia. Tu stesso puoi accertare che non sono passati più di 12 giorni da quando sono salito a Gerusalemme per il culto. Non mi hanno mai trovato nel Tempio a discutere con qualcuno, o a incitare la folla alla sommossa, né nelle sinagoghe né per la città, e non possono provare nessuna delle cose delle quali ora mi accusano. Questo invece ti dichiaro: io adoro il Dio dei miei padri, seguendo quella via che chiamano sette, credendo in tutto ciò che è conforme alla legge e sta scritto nei profeti, nutrendo in Dio la speranza, condivisa pure da costoro, che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Per questo anche io mi sforzo di conservare in ogni momento una coscienza irreprensibile davanti a Dio e davanti agli uomini. Ora, dopo molti anni, sono venuto a portare elemosine alla mia gente e a offrire sacrifici. In occasione di questi mi hanno trovato nel Tempio, dopo che avevo compiuto le purificazioni. Non c'era folla né tumulto. Furono dei giudei della provincia d'Asia a trovarmi, ed essi dovrebbero comparire qui davanti a te ad accusarmi, se hanno qualche cosa contro di me. Oppure dicano i presenti stessi quale colpa hanno trovato quando sono comparso davanti al Sinedrio, se non questa sola frase che io gridai stando in mezzo a loro. È a motivo della risurrezione dei morti che io vengo giudicato oggi davanti a voi. Ecco, queste sono le parole di Paolo. Paolo da solo, in una situazione quindi complessa, difficile, ricostruisce con linearità e direi con lucidità quello che è successo 12 giorni prima. Quindi questo, vedete, le ricostruzioni che Luca ci dà in alcuni momenti degli Atti degli Apostoli sono ricostruzioni anche molto precise dal punto di vista della tempistica e tutto. 12 giorni prima Paolo è stato arrestato a Gerusalemme, è stato trattenuto alcuni giorni a Gerusalemme, quando la sua situazione diventava pericolosa per alcuni che avevano complottato per farlo fuori, Paolo viene trasferito prima ad Affec e poi a Cesarea Marittima. Ora il processo si avviene 12 giorni dopo l'arresto a Gerusalemme, vedete è un processo che viene fatto proprio in fretta, il desiderio è mettere fuori scena l'Apostolo Paolo. Ora, nella sua risposta Paolo sviluppa alcuni elementi che sono molto importanti. Prima di tutto la centralità del Dio dei Padri. Paolo dice chiaramente che la sua posizione, quello che lui crede, quello che lui insegna, non nega l'esperienza di Israele. Il Dio dei miei padri è il Dio che lui adora, punto. Non sta profanando nessun tempio, non sta sobillando nessuna comunità giudaica. Secondo, questa adorazione del Dio dei padri passa attraverso il compimento della legge dei profeti. E qui il riferimento chiaro è ai due nuclei forti della scrittura, cioè la Torah e i profeti, cioè quelle scritture ritenute ispirate con pesi diversi nella tradizione ebraica, primo posto la Torah, poi i profeti, che anche Paolo considera come un punto di riferimento importante per cogliere il Dio dei padri. C'è un compimento di queste scritture di cui lui è portavoce. Terzo elemento importante, sottolineato da Paolo ben due volte, è il tema della risurrezione dei morti. Lui dice, se io sono qua, è perché a qualcuno dà fastidio il quanto io ho già detto, cioè a motivo della risurrezione dei morti io vengo giudicato oggi davanti a voi. Ho la speranza condivisa pure da costoro che ci sarà una risurrezione dei giusti e degli ingiusti. Quindi la sottolineatura sul punto della risurrezione è chiara. Ora, tutti questi elementi ruotano però attorno a un elemento ben forte. E l'elemento forte è: io adoro il Dio dei miei padri seguendo quella via che loro chiamano setta. E noteremo che in questo capitolo il centro, uno dei fili rossi che attraversano tutto il capitolo, è proprio il concetto della via. Cioè i cristiani vengono definiti da Paolo quelli della via. Ed è questa una definizione molto particolare che piace a Luca negli Atti degli Apostoli. Luca negli Atti degli Apostoli più volte chiama i cristiani i seguaci della via, quelli della via, gli uomini della via. Ora, cosa vuol dire questa definizione? Perché i cristiani negli Atti degli Apostoli vengono chiamati soprattutto, non solo, ma soprattutto con questo termine. Nel 2016 una biblista battista, una pastora battista, Lidia Maggi, pubblicò un approfondimento su questo tema, no? Dal titolo proprio Quelli della Via. E faccio riferimento al suo approfondimento perché lo sento particolarmente significativo e particolarmente anche centrato nel suo sviluppo, e questo ci dà modo anche di valorizzare nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani un testo un approfondimento di uno dei nostri fratelli nella fede in Cristo. Ecco, descrivendo quelli della via, Lidia Maggi fa notare, giustamente, no, come fin dall'inizio il Dio di Israele si presenta come colui che mette in cammino l'uomo. Beh, basta pensare all'importanza che ha l'esodo nel percorso del popolo di Israele, no? Uscire dalla terra della schiavitù per entrare nella terra promessa. Tutta l'identità del popolo sta tra l'origine e il compimento di quella promessa, l'acquisizione di un'identità che dura più di 40 anni. Ma notiamo anche che la via è una costante, pensiamo a tutta la tradizione profetica. Il nuovo esodo è caratterizzato dalla via, l'osservanza dei comandamenti è caratterizzata con il simbolismo della via. Persino Paolo, Saulo meglio, quando si mette in cammino per perseguitare la comunità di Damasco, il testo dice che lui si mette in cammino per arrestare i seguaci della via, uomini e donne. Quindi è una sottolineatura particolare. Ora, come mai Luca utilizza proprio questa definizione che diventa tanto cara a Paolo? Avrebbe potuto chiamare, come fa di fatto ad Antiochia, avrebbe potuto utilizzare solo la definizione cristiani. Perché Luca non si limita a questa definizione? Ma perché cristiani rischia di indicare una definizione sociologica. Ci sono gli erodiani che fanno riferimento ad Erode, ci sono i cristiani che fanno riferimento al Messia, al Cristo. È una cosa buona, però non è sufficiente secondo Luca. Quindi Luca non si accontenta di questa definizione. Avrebbe potuto, fa notare gli diamaggi, avrebbe potuto chiamare i cristiani credenti, ma anche questa sarebbe stata una definizione ambigua, perché sia nel Vangelo che negli Atti degli Apostoli l'esperienza credente a volte è a rischio di presunzione, per cui i credenti in nome della loro fede cosa fanno? Scartano, si allontanano, si separano da chi non ritengono credenti. Quindi forse anche questo è un motivo per cui la definizione cristiani, la definizione credenti non è bastata a Luca. Avrebbe potuto identificarci alla luce di uno dei riti principali che caratterizzano la nostra identità, ad esempio i battezzati, ma battezzati erano pure quelli del Battista, oppure quelli che spezzano il pane nelle case, però forse in questo ci avrebbe identificati con una ritualità che priva della relazione avrebbe portato, come dire, all'attaccamento a un rito più che a una relazione, a un'identità. Ecco allora questa definizione, quelli della via. Noi siamo coloro che in Cristo siamo in cammino. Come dirà l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, la spiritualità cristiana è la spiritualità dell'uomo in cammino. Ora, quando noi camminiamo, non sappiamo in partenza cosa incontreremo lungo la via. Non sappiamo all'inizio come la fede di Gesù prenderà forma negli incontri che faremo, quali situazioni affronteremo. Però siamo certi che noi camminiamo con il Dio con noi. E sappiamo che il percorso che lo Spirito tesse dentro di noi è quello di far crescere, far maturare il Cristo dentro di noi, perché sia Lui a parlare, pensare, agire, volere, amare, morire, risorgere in ciascuno di noi. Per cui essere in cammino in Cristo significa che ogni esperienza che noi siamo chiamati a vivere nelle 24 ore della giornata, ogni esperienza è un'esperienza preziosa, che assume un suo significato, un suo valore, una sua forza, una sua carica di annuncio. Quindi capite bene che se Paolo si presenta come colui che segue quella via che gli altri chiamano setta, e lo dice in questo momento di estrema debolezza, di un momento di processo, allora capite bene come Paolo in questo momento si sente in cammino con Cristo e conferma quell'identità che lui riconosce in quei credenti di cui è padre. Lui, Paolo, arriva a Gerusalemme dopo aver formato diverse comunità, Tessalonica, Filippi, Corinto, Efeso, comunità che ha ovviamente incontrato e formato lungo un cammino, ma non è stato solo un cammino fisico quello dell'Apostolo Paolo, è stato un cammino di crescita umana, cristiana, spirituale, che ha toccato tutta la sua persona, proprio grazie all'incontro con le diverse comunità. Ora, anche l'esperienza del carcere per Paolo entra nella dinamica dei credenti della via. Nulla va perduto, nell'esperienza cristiana nulla va perduto. Tutto messo nelle mani del Signore può essere fecondo. Allora, capite bene che per i discepoli della via, quello che è importante non è sapere da principio quale sarà la meta di oggi, di domani, di dopodomani. Queste sono progettualità molto umane. Quello che è importante per i discepoli della via è rimanere in cammino con colui che è la via, la verità e la vita. Rimanere in cammino con lui. E lasciando che sia lui di volta in volta a svelare, a mostrare qual è la meta a cui arrivare. Ed è proprio questo un po' lo spirito della risposta di Paolo. Ora, lasciamo ancora un breve stacco musicale in modo che voi che ne avete la possibilità potete rileggere questi versetti dal 10 al 21, dopodiché entreremo nella terza parte della nostra riflessione, cioè dopo il momento dell'accusa rivolta a Paolo, dopo la risposta che Paolo dà, qual è la reazione? Vale a dire come il governatore reagisce a questo, Paolo come esce, vincente o perdente? Ecco, lo vedremo subito dopo il breve stacco musicale in modo da continuare poi nella nostra conversazione. Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora, quanta vita, quante attese di felicità, quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora. Eccoci quindi al terzo momento di questo confronto dell'Apostolo Paolo, durante il processo davanti al procuratore Felice. Quindi nella prima parte abbiamo visto sintetizzato le accuse di Tertullo, di questo avvocato insieme ai giudei che accusa Paolo. Nella seconda parte abbiamo visto la risposta di Paolo che si identifica con i discepoli della via, con quelli della via, e abbiamo cercato di approfondire il significato di questo termine. E arriviamo alla reazione di Felice che è contenuta nei versetti dal 22 al 27, che sono i versetti che chiudono il capitolo 24 e chiuderanno anche l'esperienza di prigionia di Paolo a Cesarea. Allora, ascoltiamo il testo. Allora Felice, che era assai bene informato su quanto riguardava questa via, li congedò dicendo: quando verrà il comandante Lisia esaminerò il vostro caso. E ordinò al centurione di tenere Paolo sotto custodia, concedendogli però una certa libertà e senza impedire ad alcuno dei suoi di dargli assistenza. Dopo alcuni giorni Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea. Fece chiamare Paolo e lo ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù. Ma quando egli si mise a parlare di giustizia, di continenza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e disse: «Per il momento puoi andare, ti farò chiamare quando ne avrò il tempo». Sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro, Per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui. Trascorsi 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. Volendo fare cosa gradita ai giudei, Felice lasciò Paolo in prigione. Ecco come si conclude la scena. Allora uno dice, va bene, nella debolezza Paolo sente di non essere solo, anzi conferma la sua fede e non ha paura di dire le cose punto per punto. Ma come si conclude la scena? A favore o a sfavore di Paolo? Per rispondere a questa domanda noi dobbiamo metterci in un orizzonte che non è solo un orizzonte umano. E soprattutto dobbiamo aspettare un pochino la fine di tutta la narrazione degli Atti degli Apostoli, per la quale avremo bisogno almeno ancora di tutto quest'anno. Sicuramente però le cose non vanno male. Perché le cose non vanno male? Ma prima di tutto perché Felice si congeda dai giudei, cioè li rimanda a casa e dice va bene, quando verrà il comandante Lisia che mi ha mandato Paolo con tanto di lettera, esaminerò il vostro caso, ma non prende posizione. Quello che notiamo sono 3 caratteristiche che riguardano il procuratore e che possono anche far bene alla nostra fede, no? Perché a volte sono le caratteristiche con cui anche noi ci approcciamo alla fede. Prima caratteristica, il procuratore Felice viene definito assai bene informato su quanto riguardava la via. Cioè, il procuratore è uno che ne sa. E uno dice, ma come fa a essere così informato sull'esperienza cristiana, su quelli della via? Cesarea Marittima è sicuramente un luogo dove l'esperienza cristiana si è diffusa molto presto in ambiente pagano. Se voi ricordate, tutto il capitolo 10 degli Atti degli Apostoli è dedicato al famoso incontro tra Pietro e Cornelio, che è un centurione di Cesarea Marittima, dove la fede per la prima volta incontra il mondo pagano e da lì si è sviluppata una comunità a partire proprio dalla famiglia di questo centurione, che era un uomo molto giusto e molto gradito al cospetto di Dio. Quindi già a Cesarea Marittima noi sappiamo che c'era una grande comunità cristiana, quindi è probabile che Felice in parte sapesse anche dalla diretta testimonianza di questa comunità chi fossero quelli della via. Quello che però a me preme sottolineare è che il procuratore Felice imbocca prima di tutto la via della conoscenza, sa, vuole sapere di più, perché non solo si limita a sapere, ma il testo ci dice che appena ha allontanato i giudei e Tertullo, cosa fa? Si presenta a Paolo in compagnia della moglie Drusilla che era giudea, lo fa chiamare e lo ascolta intorno alla fede in Gesù Cristo, cioè questo è uno che vuole sapere, che vuole conoscere, perché voglia sapere non c'è detto, però è uno che vuole sapere e il fatto che voglia sapere viene ribadito al versetto 26 dicendo che abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui. Quindi è uno che a più riprese ci viene detto che vuole informarsi sulla via cristiana, c'è un interesse intellettuale. Ora questa cosa nel Nuovo Testamento torna più volte, noi abbiamo appena lasciato il tempo liturgico del Natale, nel Natale abbiamo persone che si dedicano al sapere tra i protagonisti della scrittura, pensiamo a Erode, Erode voleva sapere come mai i magi si erano presentati a lui, vuole sapere a quale profezia fanno riferimento e addirittura dopo essersi informati con gli scribi dice ai magi andate, informatevi accuratamente e quando avete avuto notizie precise venite a dirmelo, però capite bene a che cosa serve questa conoscenza, la conoscenza se non c'è la dinamica della via serve a ben poco. La conoscenza spinge a anche obiettivi ben negativi, che è quello di soffocare anche un'esperienza positiva che sta nascendo. La conoscenza da sola non basta. Teniamo presente che anche il peccato delle origini non è, il serpente non ha, spostato il baricentro della vita di Adamo ed Eva, non ha spinto Adamo ed Eva al peccato utilizzando il male, li ha spinti verso il bene, verso la conoscenza del bene e del male, istigando in un certo senso il pensiero che c'era una dimensione della conoscenza che Dio teneva nascosta per sé, e in questo modo riesce a intontire prima Eva e poi Adamo, con la scusa della conoscenza. Quindi vedete, la via della conoscenza che imbocca il procuratore felice non è una via promettente. Poi dopo questa prima via c'è un'altra via che imbocca il procuratore felice, che è quella della che è più legata in un certo senso all'ambito della volontà. Perché ci viene detto che il procuratore concede a Paolo una certa libertà senza impedire ad alcuno dei suoi di dargli assistenza. Quindi con questo gesto già gli viene incontro. È una mezza vittoria per Paolo, perché se pur essendo in prigione può essere assistito, può incontrare le persone, capite bene che Paolo può fare di questo un'occasione per annunciare il Vangelo, tanto vero che le prime persone a cui lo annuncia sono quelli della famiglia del procuratore. Però proprio perché Paolo stuzzica la volontà e porta avanti un Vangelo che chiede il cammino delle persone e non si tira indietro quando ha davanti Drusilla e Felice e parla loro della giustizia, della continenza e del giudizio futuro, cioè del rapporto con l'altro, la giustizia, con se stessi, la continenza, con Dio, il giudizio futuro. Quindi mette davanti Drusilla e Felice a una vita che chiede di essere plasmata da questa parola. Questa parola non ha bisogno solo di essere conosciuta con la testa, ma ha bisogno di una vita che in qualche modo si lasci plasmare. È un po' come la spugna non c'è in se stessa, no? La spugna si deve riempire d'acqua per rilasciare l'acqua, no? Lo stesso vale per l'esperienza cristiana. Quindi gli concede una certa libertà, c'è un atto di volontà, però nello stesso tempo cosa succede? Che questo atto di volontà di Felice è ostacolato dalla paura di cambiare, dall'avidità del denaro, dallo spavento di fronte a queste tre regole, giustizia, continenza e giudizio futuro, per cui Felice alla fine resta un uomo sulla soglia. Terza dimensione, che sempre caratterizza Felice, trascorsi 2 anni Felice ebbe come successore Porcio Festo, quindi Felice per 2 anni fa tutto questo movimento con l'Apostolo Paolo, però trascorsi 2 anni Paolo ancora in carcere. Perché? Perché voleva fare cosa gradita ai giudei. Capite bene, quindi qui tutto l'equilibrio. C'è un equilibrio politico che Felice non vuole perdere, per cui non solo ha la moglie giudea, probabilmente per mantenere questo equilibrio con un popolo verso il quale tra l'altro è uno dei procuratori più ostili, ma non vuole perdere nemmeno quelle poche grazie che ha nei confronti del popolo giudaico, perché salterebbe il suo potere. Allora, in nome di questo, lascia Paolo in carcere, anche se è tutto interessato a saperne di più e anche se si lascia stuzzicare un pochino nella sua volontà. In fondo alla fine resta la domanda che non tocca né la mente né la volontà, ma il cuore, cioè la parte decisionale della persona. A chi appartengo? Questa è la parte decisionale della nostra persona. Noi di chi siamo? A chi apparteniamo? Se Felice avesse dovuto rispondere a queste domande, di chi è lui? A chi appartiene Felice? Felice appartiene al potere, Felice appartiene al denaro, di cui è avido, Felice appartiene, come dire, ai suoi interessi, quello gli sta a cuore, non gli sta a cuore quello che Paolo vuole dire. E allora è chiaro che questa domanda si rivolge anche a Paolo. Paolo, a chi appartiene? È chiaro in questo capitolo l'identità di Paolo. Paolo è colui che appartiene a Cristo e che appartiene a quelli della via, cioè a coloro che sono in cammino insieme a Cristo, perché l'esperienza cristiana in tutta la sua ricchezza, in tutta la sua luminosità, possa manifestarsi e nella manifestazione contagiare altri. Ecco, cari ascoltatori, questa era un pochino la condivisione di questa sera a partire proprio dal capitolo 24 degli Atti degli Apostoli. Una delle pagine di prigionia, vi dicevo, che saranno tra le più lunghe vissute dall'Apostolo Paolo. La volta prossima vedremo come subito dopo Paolo, vedendo il prolungarsi di questa prigionia, si appella a Roma, in un contesto ben preciso, e inaugura un'altra pagina di prigionia, che è quella romana di altri 2 anni, preceduta da quel lungo viaggio che da Cesarea, un viaggio molto tormentato, molto complesso, con tanto di naufragio in mezzo, che lo porterà da Cesarea a Roma. Eppure sono gli anni più fecondi della vita dell'Apostolo, gli anni dove, restando in cammino, senza sapere bene la meta dove il Signore lo vuole condurre, ma rimanendo disponibile a quello che, alle tappe che il Signore stabilisce di volta in volta, Paolo diventerà davvero seme fecondo per la salvezza di molti. Ecco, possa lo Spirito operare questo anche in ciascuno di noi. Ora, cari ascoltatori, è un pochino il vostro spazio. La regia vi dirà come contattare la nostra, come intervenire in questa trasmissione in modo da porre alcune vostre brevi considerazioni, vostre domande o richieste di chiarimento, in modo da continuare a scavare dentro questo testo, il testo degli Atti degli Apostoli, che non solo racconta le origini dell'esperienza cristiana, ma ci consegna anche le basi, i punti forti della nostra identità. Quindi lascio la parola alla regia che, con lo stacco musicale, con le indicazioni opportune, vi darà indicazioni su come intervenire in trasmissione. Quindi grazie fin d'ora dei vostri interventi. Buonasera. Buonasera, senta, in effetti dicevo... Con chi parlo? Con Dario da Napoli. Perfetto. In effetti dicevo, la provenienza, noi proveniamo da generazione in generazione, dalla stessa stirpe della madre e del padre, ma fondamentalmente, io questo lo dico perché... Con lo studio fatto nelle materie scientifiche si risale sempre all'antropologia, cioè che noi proveniamo per esempio dagli esseri, come si chiamano, da quelle persone che del paleolitico, quindi praticamente metto un po' in dubbio tutto. Però anche se mi fa pensare sempre che Gesù, che è venuto a liberarci e che è una persona in cui possiamo credere perché ha fatto tanto per noi, mette in dubbio tutto quello che è lo studio scientifico della situazione. Io vorrei sapere sempre di più su questa cosa qua, praticamente. Non so se mi sono riuscito a spiegare. Allora, caro Dario, Non penso di aver capito bene la tua domanda, soprattutto l'attinenza al nostro testo. Sicuramente ecco quello che a partire dal quale posso un pochino fare eco al tuo intervento è questo, cioè ogni esperienza che Paolo vive, soprattutto l'esperienza della debolezza, lo aiuta a non solo vivere, ma testimoniare quello che è il nucleo più forte della scelta cristiana. Cosa intendo dire? Spesso le esperienze che ci spogliano, che ci rendono più poveri, più deboli, sono quelli che portano al nocciolo della nostra antropologia, come tu dicevi, cioè portano al nocciolo della nostra identità, che non è solo legata al nostro essere testa, volontà, cuore. Ma il nocciolo della nostra identità è proprio quello di essere avvolti da questo Dio che è il Dio con noi, che si è fatto carne, che ha avvolto, ha abbracciato la nostra umanità e ne ha fatto luogo della sua manifestazione. Grazie comunque Dario per il tuo intervento. Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, sono Giovanni da Verona. Senta, io premetto che ho ascoltato solo un pezzettino perché ho acceso poco fa e ho sentito che si parlava di San Paolo, eccetera. Ho una domanda da sempre che è questa. San Paolo è ovviamente il diffusore del cristianesimo. Allora mi chiedo un po' da sempre come mai il cristianesimo si è diffuso a Roma, eccetera, maggiormente e non in Palestina che ha assistito alle gesta di Gesù, ai miracoli di Gesù. C'è quel famoso proverbio che dice nessuno è profeta in patria, io lo capisco, ma qui è proprio cioè io sono, diciamo, non riesco a capire come mai il cristianesimo non sia diffuso lì dove è nato, ma a Roma e in giro per il mondo, eccetera. Questa è la mia domanda, la ringrazio, l'ascolto per radio, grazie mille. Grazie mille Giovanni per questo tuo intervento. Allora, se noi ci basiamo sugli Atti degli Apostoli, soprattutto l'inizio degli Atti degli Apostoli, ai discepoli viene dato proprio un programma prima che Gesù salga al cielo, no? Che risponde, praticamente corrisponde a quello che sono le ondate di evangelizzazione riportate poi nell'opera lucana. Allora, Gesù dice, no? Alla domanda dei discepoli che dicono quando è questo il tempo nel quale ricostruirà il regno di Israele, versetto 6, siamo al capitolo primo degli Atti degli Apostoli, egli rispose, non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Quindi la prima ondata di manifestazione del mistero pasquale ha proprio questa scansione, cioè si parte da Gerusalemme, si estende a tutta la Giudea, dalla Giudea con l'esperienza dei primi diaconi alla Samaria, dalla Samaria ai confini della terra. Grazie a tutta l'opera evangelizzatrice, missionaria di Paolo e di tutti i suoi collaboratori. Quindi l'esperienza cristiana non è che non si sviluppa a Gerusalemme, all'inizio si sviluppa, poi però ci sono dei fatti storici che indeboliscono molto la presenza nell'area della Palestina. A quali fatti storici faccio riferimento? Faccio riferimento alle rivolte giudaiche. Cioè le rivolte giudaiche sono due, la prima scoppia tra il 66 e il 70 e porta alla distruzione del Tempio di Gerusalemme, la seconda dal 132 al 135 che si conclude con l'estromissione di tutti i credenti ebrei dalla città di Gerusalemme, vengono praticamente allontanati, cacciati. Quindi cosa succede? Succede che il nucleo del cristianesimo delle origini è costretto ad allontanarsi dalla zona della Palestina, storicamente, almeno in due momenti. Il primo momento è quello delle persecuzioni, che scoppiano prima delle rivolte giudaiche. Quindi qui abbiamo il primo allontanamento dei credenti, dei discepoli della via, dalla Chiesa Madre di Gerusalemme. Però restano i giudeocristiani, si allontanano quelli che non parlano l'ebraico, gli altri restano alla fine ancora non toccati dalle persecuzioni. Arriva però un secondo momento che nel modo più duro coincide con la seconda guerra giudaica, la seconda rivolta giudaica, che si conclude con l'editto che allontana da Gerusalemme tutti gli ebrei. E quindi lì il nucleo ovviamente di comunità cristiana che c'era a Gerusalemme è un nucleo giudeo-cristiano, quindi viene allontanato anch'esso dalla città, e pian piano noi assistiamo all'indebolirsi, non allo spegnersi, ma all'indebolirsi della comunità giudeo-cristiana, cioè la Chiesa Madre di Gerusalemme si indebolisce, mentre si rafforza enormemente, si sviluppano, prendono piede, hanno una certa incisività, tutte le comunità nate dall'attività missionaria di Paolo. E quindi pian piano assistiamo anche allo spostamento del baricentro del cristianesimo delle origini, prima da Gerusalemme verso Antiochia, poi da Antiochia verso Roma. Comunque è un baricentro che si sposta, si allontana da quella che è la culla originale del cristianesimo. Ora, tutto questo ci deve portare anche a tenere presente che le nostre origini non possono non tenere conto di questa culla madre, cioè l'unità, proprio anche in questa settimana la cosa è molto interessante, no? Siamo chiamati a non dimenticare le nostre origini ebraiche, il popolo ebraico e le sue scritture ci offre la chiave per accedere anche al mistero di Cristo, come il mistero di Cristo illumina le scritture ebraiche, no? Quindi l'esperienza cristiana ha bisogno di respirare con questi due polmoni che poi si identificheranno nella Chiesa d'Oriente e nella Chiesa d'Occidente, però con l'esperienza dei pagano-cristiani e dei giudeo-cristiani, mai dimenticare queste due, anche se ci sono stati dei momenti storici dove la storia, come dire, ha guidato verso un'altra direzione. Ecco, qui sarebbe davvero interessante sentire un approfondimento da parte di uno storico del cristianesimo delle origini, no? Che ci aiuti a capire bene cosa è successo. Io l'ho detto proprio in sintesi, però meriterebbe proprio un approfondimento. Questi sono gli anni, comunque quello delle due rivolte giudaiche, dove cambia decisamente la configurazione geografica dei discepoli della via, per motivi contingenti. Grazie di cuore Giovanni per la tua domanda. Pronto? Pronto? Buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Dunque, mi chiamo Alessandro e chiamo dalla provincia di Livorno. Dunque approfitto per, stavo ascoltando la sua risposta interessantissima, approfitto per farle una domanda io che mi ha sempre suscitato un po' di perplessità riguardo negli Atti degli Apostoli, riguardo a quel famoso sogno di Pietro dove Dio gli dice svegliati e uccidi. Ma io non so, questa cosa mi torna sempre in mente. Lei potrebbe spiegarmi esattamente, secondo lei è un fatto che dobbiamo accettare come un fatto che Luca riporta con veridicità, cioè un fatto che veramente gli è stato trasmesso da Pietro, oppure è un intervento diretto del redattore, cioè di Luca, che interviene su una disputa che all'epoca sappiamo essere molto delicata e sulla questione dei cibi puri tra giudei e ellenisti. Diciamo, ecco, potrebbe essere stato che Luca, visto che la stranezza, no, di un Dio che dice svegliati e uccidi e mangia, e poi questo sogno dove piovono tutti i pezzi di carne, insomma una cosa veramente un po' strana, potrebbe essere un intervento diretto di Luca per approfittare della sua capacità di scrivere per dirimere questa questione che poi suscitò anche il congresso lì di Gerusalemme. Grazie. Grazie di cuore Alessandro per quest'altra domanda, davvero anche questa molto interessante, no? Allora, riprendiamo un attimo il testo a cui il nostro ascoltatore fa riferimento. Siamo nel capitolo 10, è proprio l'esperienza che apre la comunità cristiana a Cesarea, Cesarea Marittima, quindi l'incontro con Cornelio, la visione che prepara l'incontro con Cornelio, e il testo dice così: Pietro verso mezzogiorno salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: «Coraggio, Pietro, uccidi e mangia!» Ma Pietro rispose: «Non sia mai, Signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro». E la voce di nuovo a lui: «Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano». Questo accadde per tre volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato nel cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco gli uomini inviati da Cornelio. Allora, è successo questa cosa, come dire, come interpretarla? Ma Alessandro, allora io la interpreterei come la interpreta Pietro, cioè più che pormi domande sul redattore e non redattore, e darei delle risposte comunque, come dire, che non accontentano, perché chi sono io per andare a dire è un genere letterario, è un, certo posso dire un genere letterario, però la veridicità di quello che, dell'interezza, del dettaglio di quello che viene narrato, chi sono io per contestarla o per non contestarla in questo contesto, eh? Tanto vero che il testo parla di un'estasi, cioè Pietro viene portato fuori da sé, no? Pietro non uccide nessun rettile né uccello, in questo caso del cielo, perché la tovaglia viene riportata sul cielo, no? Alla fine, quindi non ha nemmeno il tempo. Però dico perché mi identifico con Pietro, perché Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa volesse dire questo, cioè quello che al narratore sta a cuore è portarci in questa dimensione di Pietro, cioè porci noi degli interrogativi, capire noi cosa vuol dire. E cosa vuol dire quel coraggio, uccidi e mangia? E lo dice subito dopo la narrazione, cioè Pietro sta accogliendo in casa dei pagani. Il problema di Pietro è che fino adesso Pietro non è ancora riuscito a superare le barriere con il mondo pagano. Lui è un giudeo doc, è cresciuto nella Chiesa Madre di Gerusalemme, ha la responsabilità, fa proprio fatica a superare le barriere. Ha fatto fatica quando è andato in Samaria, figuratevi qui a Cesarea Marittima, no? Tanto vero che lo Spirito gli dice: scendi, va subito con queste persone, e Pietro non riesce ad andarci subito, ci deve dormire sopra una notte. Pietro si viene chiamato da solo, non riesce ad andare da solo, si porta con sé altri credenti giudei come lui. Arrivato da Cornelio non riesce a entrare subito in casa, cioè capite quante cose davvero deve uccidere del suo io per entrare e condividere la mensa con un pagano. Solo alla fine riesce a fare tutti questi passi. Ora, la scena, la visione che lui ha avuto è una visione che lo prepara a superare tutte le resistenze sociologiche, religiose, rituali, legate alle sue convinzioni. Servono proprio per essere più docile nelle mani di Dio. Ora, questo è un modo con cui Dio può comunicare attraverso di noi. Del resto sappiamo, il sogno, come la visione, l'estasi, l'essere portati fuori di sé, non è qualcosa che riguarda solo Pietro o questa scena. Ci sono santi, beati, altre persone della scrittura che hanno vissuto esperienze simili. Pensiamo a quello che racconta lo stesso Paolo, no? Che fu rapito in estasi, fu portato fino a contemplare il settimo cielo, cioè sono tutte esperienze che vengono da Dio e che a mio avviso vanno lasciate nelle sue mani. Ora, io non è che appoggio la mia fede sulla tovaglia che è scesa davanti a Pietro, però questa tovaglia e questa visione dove il Signore, lo Spirito dice a Pietro coraggio, uccidi e mangia, è chiaro che diventa anche per me stimolo a domandarmi che cosa vuol dire e quali sono le barriere che io stesso posso mettere nel entrare in relazione con altri attraverso i quali magari il Signore mi vuol dire qualcosa. Non dimentichiamo che se che l'annuncio cristiano si è aperto al mondo pagano, non è che è stato merito di Pietro, e diciamocelo pure, neanche di Paolo. Il merito è dell'azione dello Spirito che ha agito nell'eunuco etiope, primo, e poi in Cornelio, secondo. Sono questi due uomini, con la loro tenacia, provenienti dal mondo pagano, che svegliano uno Pietro, l'altro Filippo, e poi a ruota verrà anche Paolo, grazie all'incontro sulla via di Damasco. Però gli Atti degli Apostoli sono molto, molto fini nel far capire che i protagonisti dell'identità cristiana non sono i dodici, ma è l'azione dello Spirito in persone marginali che diventano decisive nella conversione che i grandi apostoli faranno dentro di sé. In tal senso possiamo dire che gli apostoli sono, Paolo compreso, sono i primi a vivere quella dicitura su cui ci siamo soffermati in questa trasmissione, cioè i primi ad essere davvero i discepoli della via, coloro che si lasciano plasmare dal messaggio di Cristo. Grazie di cuore Alessandro per questa domanda davvero interessante. Pronto, pronto padre, buonasera. Sono Maria Letizia, chiamo da Roma. Mi volevo dica, ringraziarla tanto per la sua catechesi, per il suo intervento, e soprattutto mi hanno colpito due cose di quello che lei ha detto quando ci ha parlato della spiritualità della croce e quindi l'importanza della spiritualità della croce che San Paolo portava a tutti, perché la spiritualità della croce è la spiritualità dell'amore di Cristo crocifisso. Mi viene in mente così quel famoso libro di von Balthasar intitolato Solo l'amore è credibile, dove parla appunto dell'amore di Cristo crocifisso, il solo amore credibile. E poi mi è piaciuto tanto quando lei ha detto che qualsiasi cosa mettiamo nelle mani di Dio prende valore, qualsiasi cosa, sia di positivo e anche di negativo, perché alla luce di Cristo crocifisso ogni evento della nostra vita assume un significato, persino il dolore. Questo mi è piaciuto molto, padre, e porto questi due suoi pensieri nel mio cuore oggi attraverso il suo intervento. Poi invece volevo chiederle come potremmo fare noi a recuperare la forza di San Paolo nell'annunciare Cristo nella nostra società contemporanea, che vuole sempre di più soffocare e cancellare le radici cristiane europee, lo vediamo con le politiche economiche e sociali, la teoria del gender, il matrimonio tra omosessuali che diciamo vuole calpestare non solo i valori cristiani ma anche i valori elementari della legge naturale umana. E poi vediamo anche sempre queste politiche contro chi è debole nella società, contro il povero, la vedova, contro gli ultimi, a favore sempre di un'elite di persone che si distaccano bene dalla povertà, dal valore della povertà evangelica. Come possiamo fare a recuperare la forza di San Paolo nell'annunciare Cristo? Grazie Maria Letizia per il tuo intervento. Prima di tutto grazie per l'eco. Io Confesso che parlare della spiritualità della croce, della teologia della croce nell'Apostolo Paolo, davvero mi sento molto molto piccolo. Lei ha citato un gigante, von Balthasar, ma io mi sento davvero molto piccolo di fronte a questi giganti. Il mistero della croce è davvero un mistero così vasto, così ampio, anche quando noi usiamo tutti gli strumenti dell'esegesi, ci si sente sempre molto piccoli. Come dire, la croce è quando ci si passa in mezzo, no? Che uno può sperimentare quello che ho detto, e allora anche forse le parole si riducono per lasciare spazio proprio ancora di più all'azione del Cristo. Quindi grazie per questa prima parte, no? Del suo intervento, che tra l'altro mi evocava il brano del Vangelo di ieri, no? Ieri avevamo il brano delle nozze di Cana, no? Quelle 6 anfore piene di acqua per la purificazione, no? L'acqua per la purificazione è l'acqua dove i giudei mettevano dentro i gomiti per lavarsi prima di entrare alla festa, e da lì viene attinto il vino nuovo. E l'Evangelista dice che il capo del banchetto non sapeva da dove veniva l'acqua, meno male, lo sapevano però i servitori. Come mai viene utilizzato proprio questo simbolismo, no? Perché davvero il Signore sa operare anche in ciò che noi scartiamo, anche ciò che per noi non vale niente, anche ciò che per noi è oscuro, impuro, lontano. L'importante è che viene consegnato a Lui. Ecco perché Maria dice ai servitori: qualsiasi cosa vi chiede fatela, qualsiasi, anche se vi sembra assurda, qualsiasi cosa vi chiede fatela. Perché a volte il Signore ci fa passare attraverso dei passaggi assurdi, però ecco, sapere rimanere consegnati anche in quei passaggi assurdi, la grande sfida, no, della nostra fede. E poi la sua domanda: come recuperare la forza di Paolo? Ma io penso che per recuperare la forza di Paolo non è che ci vengono chiesti sforzi di volontà o di conoscenza. Noi pensiamo di persuadere il mondo attraverso la lotta delle idee o attraverso gli atti di volontà, no? Imporsi, ma non è questo. Io penso che la forza di Paolo si ha nel momento in cui si è accoglienti alla grazia e alla vita, come lo è stato Paolo, accogliente alla vita che era Cristo, accogliente alla grazia che è Cristo, accogliente alla sua azione che è Cristo. Perché uso questa immagine? Perché è così che funziona la vita. Quando un grembo riceve la vita, la vita dopo 9 mesi esce, a volte anche prima. Quando la vita è dentro di noi, non è che dobbiamo spingere, far forza, certo va custodita, quella sì, dobbiamo stare attenti, custodire, vigilare, ma la vita, una volta che è dentro di noi, prima o poi esce, perché è nella natura delle cose così. Non è che uno fa crescere la vita che è in sé a forza di idee o a forza di atti di volontà. Quindi penso che recuperare la forza di Paolo significa prima di tutto recuperare la sua grande accoglienza all'azione della grazia, all'azione dello Spirito, cioè a questo non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me, lasciandolo crescere, vivere, maturare. Penso stia qui un pochino il segreto. Grazie di cuore Maria Letizia per il tuo intervento. Pronto? Non ti parlo, pronto? Sì. Pronto, sono Luca da Brescia. Buonasera. Buonasera, ecco, dimmi Luca. Ecco, prima lei quando parlava di questa vicenda di Felice e di Paolo, di questo governatore Felice che era interessato alla via, quindi andava a interrogare Paolo, così mi veniva in mente un altro parallelo e volevo una sua idea, una sua meditazione. Il parallelo fra Erode e Giovanni Battista, perché nel Vangelo di Marco si dice appunto che c'è scritto questo, no? Erode temeva Giovanni, sapendo l'uomo giusto e santo, e vigilava su di lui. Nell'ascoltarlo restava molto perplesso, tuttavia lo ascoltava volentieri. Ecco, siamo di fronte a un'altra persona, Erode, che ascoltava volentieri Giovanni, che però alla fine non ha saputo difendere Giovanni, perché sappiamo poi com'è andata la storia. Ecco, volevo dare un paragone fra Felice e Paolo e fra Erode e Giovanni Battista, se è un paragone possibile farlo. Buonasera. Grazie di cuore Luca per questo intervento che è illuminante, davvero. Guardate, se noi scrutassimo le scritture, davvero riusciamo ad arricchire un testo utilizzando il metodo un po' delle perle ebraiche, no? Infilando una perla dietro l'altra, cioè riusciamo a vedere come le scene, alcune scene, si ripetono. E quindi è ottimo la riflessione che Luca ci propone, il nostro ascoltatore ci propone. Come Erode il Grande con i Magi, così Erode Antipa con Giovanni Battista, così Felice con Paolo, così il mago Simone con Pietro, tutte persone che cercano di capire, di curiosare, di scavare, ma che non si lasciano coinvolgere, perché poi il coinvolgimento rischia di essere qualcosa che ti mette in discussione tutta la vita. Abbiamo in un certo senso tante figure di persone ricche, come l'uomo ricco che incontra Gesù nel Vangelo, che sa tutto, vuole capire ancora di più, ma che messo nel punto cruciale di lasciar plasmare la sua vita dalla parola che ascolta, si ritira triste. Quindi Luca, non solo è corretta il tuo parallelismo, ma è davvero illuminante per tutti noi, quindi davvero grazie di cuore per il tuo intervento, che ci consegna anche, ecco, una piccola metodologia di accesso alla parola di Dio. Io sono sempre più convinto che il modo migliore per illuminare la parola è la parola stessa, che era il metodo che utilizzava Gesù, no? Spiegava le cose partendo dalla legge dei profeti, così come il suo stesso mistero è stato illuminato dalla legge degli scritti dai profeti. E così anche noi, capire una parola tenendo presente l'insieme della scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento, scrutando le scritture. Ecco, questa è davvero una bella via per sentire la parola viva, luminosa e soprattutto vitale per ciascuno di noi. Prendo l'occasione allora per ringraziare quanti sono intervenuti, quindi Dario da Napoli, Giovanni da Verona, Alessandro da Livorno, Maria Letizia da Roma e quest'ultimo ascoltatore Luca da Brescia. Grazie di cuore per i vostri interventi, perché hanno davvero reso più ricca, più feconda questa nostra conversazione. E su tutti voi, cari ascoltatori, imploro la benedizione di Dio e assicuro la mia preghiera, certi che insieme, come corpo, come unica Chiesa, riusciamo a camminare meglio insieme a tutti i discepoli della via. Il Signore vi benedica e Maria continui a intercedere per ciascuno di noi. Buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.